Stiamo scaldando i motori, finalmente Pamela disputerà un titolo continentale importantissimo per la propria carriera, che è il titolo europeo EBU, è il vero titolo europeo. Insomma, siamo felici, non vediamo l'ora di salire sul ring. Pamela è carica, è pronta, siamo ancora in fase di rifinitura, perché comunque mancano ancora circa 20 giorni, di meno 15 giorni, però insomma sta andando tutto come dovrebbe andare da un punto di vista di preparazione, di alimentazione, peso, siamo abbastanza messi. Bene, insomma. Come sarà l'avversaria? L'avversaria, la Nina Pavlovic, è un'avversaria che conosciamo già in Italia, ha disputato nel 2021 all'Allianz Cloud a Milano nella riunione di Salvatore Chierchi dell'OP 2000 e Matchroom su DAZN, aveva fatto il mondiale contro una pugile francese, me la ricordo, è un'avversaria sicuramente degna di fare un titolo europeo. Gli altri incontri? Gli altri conti, c'è un interessantissimo sottoclou, prima su tutti Antonio Licata, che fa l'avvicinamento al titolo italiano, farà un match molto importante contro Zitto. Poi abbiamo il nostro Kevin Mustafai, che ritorna su ring dopo aprile, ha avuto alcuni problemi fisici, stiamo rientrando adesso. Ci sarà Tony Shev della Sempre Avanti insieme a Bianca Maria Tessari, e abbiamo altri due profili interessanti, tra cui Aiello, che è un ragazzo che viene giù da Napoli, che è veramente interessante anche questo match qua. Ovviamente si chiede, insomma, se ce n'erano 2005 ad aprile, si spera di più al Paladozza. Lo speriamo tanto, perché non solo per Pamela, ma lo dico anche proprio per tutto il movimento pugilistico bolognese, perché pugilato sta tornando alla ribalta, sta tornando forte in tutta Italia, in tutta Europa, e uno su tutti il dato dell'Inghilterra, 96.000 spettatori a Wembley a vedere Anthony Joshua. Insomma, il pugilato sta ripartendo forte, anche grazie alla Federazione Pugilistica Italiana, che sta facendo un lavoro dal nostro punto di vista spettacolare, insomma, sulla promozione e sulla diffusione. Abbiamo le palestre pienissime, insomma, ci aspettiamo un Paladozza gremito per scrivere la storia, si può dire. Un europeo sono circa 40 anni che manca a Bologna, 45, quindi speriamo che vada tutto bene. Prevendita sta andando abbastanza bene, abbiamo messo anche i biglietti in sconto a 15 euro, è un annuncio che voglio fare, e hanno l'ingresso ridotto nella curva. Abbiamo cercato di fare il possibile anche con l'organizzatore di tenere i prezzi più contenuti possibili, perché ovviamente a noi ci interessa che lo sport sia accessibile, un evento del genere sia accessibile a tutte e a tutti. Ovviamente siamo in contatto con le associazioni, diverse associazioni ci hanno chiesto diversi pacchetti di biglietti con una scontistica, e siamo veramente felici che vengano a supportare tutto il movimento bolognese al Paladozza.